America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Beh, abbiamo una gran quantità di notizie, non solo il Papa in questo momento domina le cronache. Abbiamo avuto ieri sera una cena alla Casa Bianca tra Obama e Xi Jinping. Il presidente americano si è congedato da Papa Francesco da un incontro spirituale e a questo punto è passato all'incontro col potere temporale per eccezione, perché con Xi Jinping c'è un dossier molto denso sul piano economico, sul piano politico, sul piano geopolitico. Naturalmente oggi ci sarà un vertice, un G2 alla Casa Bianca con le delegazioni, perché anche dal punto di vista economico le cose sono molto importanti. Altra notizia, Vladimir Putin e Obama avranno un vertice a New York la settimana prossima. Il presidente americano all'inizio non voleva saperne, perché ha capito che di Putin, non ci si può fidare, però la crisi russa continua ad essere aperta, c'è il problema siriano, con la Russia si è lavorato sull'Iran, chissà che non si possa fare qualche cosa su altri fronti, e dunque ecco questo vertice molto importante. E poi, il Papa, molte notizie attorno al Papa. Il Papa che è arrivato finalmente a New York, ha lasciato Washington, è andato subito, appena arrivato, alla cattedrale di St. Patrick, sulla Quinta Strada, per i Vespri, un incontro con i prelati, con le suore. Oggi, fra poco, alle 8:30, quindi fra poco più di tre quarti d'ora, parlerà all'Assemblea Generale dell'ONU, parlerà di sviluppo, dei temi a lui cari. Poi alle 11:30 andrà al Memorial di 9/11 dell'11 settembre, nel pomeriggio a East Harlem per visitare una scuola, alle 5 la processione al Central Park, che sarà una cosa enorme, e infine alle 6 la messa al Madison Square Garden. Ecco, devo dire, non so come riesce, perché sono delle giornate faticosissime. Comunque, la giornata di ieri a Washington si è chiusa in una grande chiesa, accolto dal rettore di questa chiesa che riunisce centinaia di persone senza fissa di mora, e Bergoglio ha voluto passare del tempo con loro. Ma c'è una cosa fra tutte queste storie e notizie che è più importante delle altre, ed è quella che ha la dimensione storica, e cioè l'intervento di Papa Francesco davanti al Parlamento americano riunito in seduta plenaria. Ecco, io ero in Parlamento, ero alla Camera, e quindi ho vissuto direttamente questi momenti elettrici di grande emozione in cui si aspettava il Papa, l'arrivo del Papa, il discorso. Ecco, ho registrato un momento dal vivo e quindi vorrei riproporvelo per darvi, un po' la sensazione di come si stava dentro il Parlamento quando è stato annunciato l'arrivo del Papa. Sentiamo. Avete sentito l'applauso, l'ovazione, l'entusiasmo? Devo dire, c'era grande emozione in Parlamento, alla Camera, dove c'erano un po' tutti i senatori, i deputati, i membri del governo americano, dei ministri di Barack Obama, c'era la Corte Suprema, c'era la rappresentanza diplomatica a Washington. Dunque il To Washington era lì per sentire Bergoglio, il quale non ha deluso, pragmatico, diretto, ispirato come sempre, ha chiesto al Parlamento americano di recuperare i valori fondamentali della Repubblica. Non ha voluto costruire un discorso aggressivo, Bergoglio, ha cercato di gettare un ponte, ha chiesto di superare le divisioni e di dialogare invece di chiudersi. Sappiamo quanto in America ci sia il muro contro muro, come del resto c'è un po' dappertutto. Ecco, Francesco ha parlato in un inglese a tratti stentato, però è riuscito a farsi capire, ha usato un tono garbato, ha parlato con moderazione, senza rinunciare mai a nessuno dei temi a lui cari. Così, per esempio, ha chiesto ai parlamentari americani di pensare all'ambiente e di passare all'azione, di avere compassione per gli immigrati, per i poveri, e di bloccare una volta per tutte il traffico di armi, ha detto, che uccidono famiglie e innocenti. Ha sottoscritto l'abolizione globale della pena di morte, cosa che in America non è molto condivisa, anzi non è condivisa per niente, come sappiamo. Quindi ha detto delle cose anche che magari a questi parlamentari non sono piaciute, ed ha auspicato, questo l'ho trovato molto interessante, perché Bergoglio è preoccupato dalla corsa verso il futuro e verso la modernizzazione eccessiva, e dunque ha auspicato che la grande ricerca americana possa darci uno sviluppo tecnologico a misura d'uomo e un capitalismo inclusivo che elimini le sperequazioni. As the son of immigrants, knowing that so many of you are also Descendants of Immigrants. Ecco, poi tema centrale. Ha chiesto ai parlamentari di ricordare le difficoltà degli immigrati perché siamo tutti figli di immigrati, ha detto, soprattutto noi nati e cresciuti in America del Nord, in America del Sud. Non ha voluto fare distinzioni, ha aggiunto: non fate ad altri quello che non volete sia fatto a voi. Questo è stato uno dei momenti più emozionanti, grande standing ovation di nuovo per il Papa. Un discorso, devo dire, interessante e costruito molto bene, perché Francesco ha seguito le storie di quattro grandi americani per illustrare il suo messaggio: Abramo Lincoln, il grande presidente che ha combattuto per le libertà e per l'unione; Martin Luther King, il leader per i diritti civili; Dorothy Day, un'attivista sociale cattolica; Thomas Merton, una guida spirituale che ha aperto nuovi orizzonti per la Chiesa cattolica americana e mondiale all'inizio del secolo scorso, e soprattutto ha favorito il dialogo, ha cercato il dialogo. Ecco, su questo continuato a battere e ribattere Papa Francesco. Parliamo, dialoghiamo anche con i nostri nemici, anche con coloro che ci sembrano estremisti e con cui non abbiamo nulla da dirci. È meglio parlare e risolvere le cose piuttosto che andare allo scontro diretto. Poi il congedo, sentiamo. The dream continues to inspire us all, and I am happy that America continues to be for many a land of dreams. La nostra, dice Francesco, deve essere una risposta di speranza e di guarigione, di pace, di giustizia. Una nazione può essere considerata grande quando difende la libertà, come ha fatto Lincoln, quando promuove una cultura che consente alla gente di sognare pieni diritti per tutti, propri fratelli, sorelle, come ha ispirato Martin Luther King, che lottava per la giustizia, per la causa degli oppressi, come Dorothy Day ha fatto con il suo instaccabile lavoro, frutto di una fede che diventa dialogo, semina pace, nello stile contemplativo di Thomas Merton. Poi la benedizione. God bless America, ha detto. Non ha detto io God bless you and God bless America, ha detto semplicemente God bless America, tutta l'America. E poi l'ultimo interminabile applauso, come dire, a suggellare la fine di un altro momento straordinario nella storia di questa antica democrazia e di questo Papa, che per la prima volta ieri si sono incontrati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come dire, il messaggio del Papa è stato molto chiaro: non mollate, andate avanti, un po' come di qui alla fine, get going, get going. Dunque vi propongo di Michael Franti, Hey World, Don't Give Up, non mollate. Was greener years ago. I swear it used to grow here, but no more here. Tell me why on this hill all the birds they used to come to fly here, come to die here. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye e soprattutto get going.